Attenzione, attenzione Fabrizio. Fabrizio, attenzione Fabrizio. L'altro, a meno che non devo usare tutte e due contemporaneamente. No, contemporaneamente no, devo lasciare un microfono con i due 430 e l'MC60 a metterlo su 140, capito? Attualmente che connettore c'ha quello là? C'è qualche connettore differente? No, il gambetto è uguale a quello che hai fatto, preciso e identico. L'unico problema c'è qual è? Che anziché innestarlo, perché le uscite di questo microfono sono una Kenwood e una Icom dal microfono. C'è il tattino sotto, no? Posizione Kenwood e posizione Icom. E ce l'ho usando in posizione Kenwood. Però non vorrei che la posizione Icom, facendo il cavetto Kenwood e Kenwood, mi turbasse, capito, non funzionasse, non so. Ah, tu vuoi usare un microfono per i due apparati usando la commutazione di sotto. Tecnicamente non è un problema, è la stessa cosa. Però spetta, diciamo, a te fare l'adattamento sul connettore microfonico, quello che va alla radio, seguendo, cioè a posto di seguire quello che dice lo schema, lo fai tanto, c'è sempre la stessa cosa, no? Non è che ci siano cose particolari, la corrente a 8 volt, c'è un cavo di microfoni, c'è un cavo di TT e c'è la massa, anzi due masse, per dire vero, microfonica e l'altra che è... Ma l'importante è che l'attrezzo commuti tutti e due, da accesi da Cesaro venne salita, claro, perché lui dà alimentazione, darebbe alimentazione a due microfoni e questo ti carica un pochino già l'apparato dal punto di vista degli assorbimenti, ma in teoria non le dovrebbe fare grandi cose. Il problema sono però gli altri contatti, se quel tastino di sotto commuta tutto o commuta solo una parte. No, commuta solo una parte. È fatta apposta. È come l'MC85, non so se tu ce l'hai avuto. Capito? Radio 1, posizione 1, posizione 2, posizione 3. Qua ne aveva 3 uscite. Questo ne ha 2. E sotto c'è il tastino che praticamente devia da una parte una radio e poi dall'altra, se tu sei, per dire, con la posizione numero 1 stai usando il 140, anche se c'è il connettore attaccato sul 430 non interferisce, però l'avevo già provato, ma l'ho già avuto io a due uscite alla 12, l'ho già avuto, capito, ce l'avevo, lo usavo con due radio, non interferisce, fatto apposta. Non è un problema quello, ce l'uso così, poi ci mettono, sono sempre alla caccia di un 60, capito? Perché esteticamente sarà un grande microfono, funziona bene, un microfono professionale, però esteticamente non mi piace. Non mi è mai piaciuto, non mi piacciono questi flessibili, non mi piace l'MC60, capito? Ma ti piace più l'MC60 o questi qua neri, diciamo così? No, mi piace più l'MC60, mi piace più esteticamente, come funzionamento questo è eccezionale, molto, molto più microfono, però mi piace più l'MC60, infatti se c'è qualcuno che trovo che fa cambio, riceve magari un microfono due uscite, io lo prendo, mi faccio l'60. Io l'ho dato lo stesso l'MC60 perché non mi piaceva, troppo ingombrante, non ci stava, e poi è un microfono dinamico, capito? Oramai cioè, sulle radio moderne i dinamici zoppicano un po'. Questo ceramico è come microfono? No, non direi proprio, tanto che i miei perlomeno li ho tutti aperti e sono elettre, quindi c'è una capsula condensatore che oramai viene usata per tutto, dai telefonini alle radio, ai portatili, per qualunque cosa, guarda, perché è molto piccolo, c'ha un'ampia gamma di frequenze ed è facile anche da amplificare. Quindi direi che ci scrivono ceramico, ma secondo me non so, non è che quello che scrivono. Non lo so, non lo giaccio. Chiappa. E comunque il funzionamento già è buono, non c'è problema, l'importante è che sia buono il funzionamento. Sì, quello sì, c'è una resistenza micidiale agli innischi, alle alternate, a tutte quelle cose lì che certi microfoni c'hanno, capito? Questo invece è abbastanza tranquillo. Vediamo cosa succede. Quindi, hai notato che sono un po' duri quello spinotto, anche da te è duro? No, Gianfra, assolutamente no. No. Cioè la sua posizione entra tranquillamente, senza forzare niente. Quello del microfono è un pochino più duretto, ma quello incassa, poi per tirarlo fuori io, tiro la levetta e salta. Ma quello della radio va abbastanza bene, perché da te è difetta. No, non è che difetta, esce e già esce, è che è molto duro a entrare e a uscire, ma attenzione, io ho usato anche le prese insomma, nella confezione c'è sia il coso lì, lo spinotto, sia quello da pannello, ci sono tutti e due. Infatti a forza di usare molti spinotti da pannello, di quelli femmina, diciamo, sono rimasti un po' di maschi. Tranquillamente, senza problemi, che va bene. Sì, adesso lo metto qua, sicuramente dovrò abbassare perché essendo amplificato magari innesca. Prova a vedere se innesca, non penso comunque, non so che va bene lo stesso. Pagliero? Qualcomane? ciao Natalia. Ecco, stai mescando? No. E rispetto a quello là com'è la radio? Questo è da tavolo. Ovviamente è più forte, no? Deve essere chiuso sotto. No, è tutta aperta. È tutta aperta. Dipende, è una questione di impedenza, forse. Non so neanche se sia SSB o sotto, hai visto che c'è anche quel tasto, no? Sì, mettere un SSB, ma non serve a niente, troppo comprovazione. Mettere un SSB, anche io c'è un SSB. Sì, è già in SSB. Prova a commutare in FM, se migliora. Ecco, adesso è un FM, ma penso che sia la stessa cosa, più o meno. No, è un po'... Non può mettere una M, vedere. In SSB AM non è a questo. SSB, tastino di sotto, sempre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso commutato in FM. Vediamo un po' se casca, no, non cambiamo tutto. Ah, va bene, lasciamo così. Provami con Natalino, se si sente bene. Ma io lo sento bene, Gianfranco. Ciao Gianfranco. Allora, lo lascio così, tanto. Non è neanche di questo apparato. Vediamo se blocca. Se blocca pure. Lo down qua non funziona, credo. Perché il microfono suo originale in realtà c'ha 6 piedini, questo ne ha 8. Ha 8 piedini, c'è anche questo, sì, 8 piedini. E questo è asse tipico dei presidenti. Natalino, dice qualcosa, adesso che ci stiamo annoiando, dai. E questo che microfono è? Quale? Quello che stai usando tu? Via. Oh, se non sei tu, mica sono via. Cos'è? La... Cos'è il più 3 o un più 5 più 4? Il più 4 è, gli ho fatto la prolunga per questo apparecchio qua, ma l'ho visto usando su testa adesso. Sì, va bene, va bene. Molto chiara, presente la modulazione, non problema. K, anda bene Meda. E così ce li ho tutti e due funzionanti. Siccome il cavo di questo microfono, lo spiralato è corto e non ci arriva l'apparato, e allora gli ho fatto una prolunga che gira, mi sembra che me la tolgo il filo spiralato e gli metto il filo diretto, questo che ho fatto io, che è molto meglio. Ce lo puoi fare, Fabio, almeno è a posto, già va bene. Vai Gianfranco, prendi un secondo al voce di te, vedi come apparito. Allora Natalino, che si dice? Qua sono andato via e inizia a calare il buio e non sono neanche le 6. In effetti è già buio anche qua, già lo vedo alla finestra. Infatti adesso vado anche io, ma sento che chiudo la finestra, tanto sono la megastica, non con le scatole sopra la finestra. Cava cava. A te l'immagine, mi sono dovuto comprare il telefono nuovo. Tania, qua non c'è radio. come ne sarai tu? Radio bassa Natali, come mai? E perché basso il microfono? Allora alzo, guarda a vedere, amplifica adesso. Beh, se no fa fatica, il segnale già è buono, ma la radio bassa. Adesso già va meglio, allora, ciao Gianfranco e Claudio. Beh, avete risolto con Roberto Gianfranco. Aspetta che ti accostato. La progenita è troppo bassa, era io non ti ho detto niente, ma la radio è brutta. Avevo scelto anche io quando la chiudere gli sportelloni. Guarda la differenza, perché sei di Claudia, lei sei natalino. È un abisso. Ho dovuto abbassare adesso. Cappa, andava. Stavi parlando natalino, non ti ho sentito, cosa hai detto? Ho detto, stavo dicendo a Claudio, mi ho dovuto comprare il telefono nuovo. Cazzo. A Giumano non mi ero mandato in garanzia, sono dovuto andare dove l'ho comprato addirittura, perché loro mi avevano mandato al centro assistenza e non me l'hanno accettato perché dice che non l'ho pagato a rate. Cazzo, ma io non lo posso pagare come ti mi pare nei miei biazzi. E dove l'hai comprato quello? In via Prunicida l'ho comprato quel telefono là, e adesso già me la fa fare lui l'assistenza, che glielo porta lui a quelli di via Littaria, perché dice che non l'ho pagato in che l'ho pagato in contanti e non a rate, non mi facevano l'assistenza. Per forza te la dovevo fare, tu lo paghi a rate, lo paghi in contanti, ma dovevo fare lo stesso l'assistenza. Ah, siamo a buffonetti. Allora, 2 anni di garanzia per legge, 2 anni di garanzia. E però mi hanno detto di portarlo dove l'ho comprato, e così ha giuvato. A chi si chiese un burro mi lo rifiutava per cui di a cabo. Tanto io poco bisanti sul telefono, è un bel ragione. Ma lo sai perché? Perché sono cuocuomani. Me ne sono dimenticato di dirglielo, che era un cuocuomane a quello. Caspitina. No, vabbè, io, grazie a Dio il mio S10 va benissimo, era in garanzia fino a luglio dell'anno scorso, no, di quest'anno, giugno, fino a giugno, adesso è scaduta, ma qua ti posso garantire che non ho avuto problemi, ripeto, solo la batteria che è già dura, ma io lo uso molto e purtroppo se ne scende. E va il tempo su, io vuol dire no, e non dura più di tanto. Cosa vuoi che ti dica? Io me l'ho dovuto comprare nuovo, chissà adesso quanto me lo tengono questo telefono. Vedi un po'. Vedo un po', io già mi ero comprato uno senza telefono e c'è zio. No, assolutamente no, è perché devi stare senza telefono. Il problema è di loro, cioè di loro, il telefono tuo è in garanzia, è un mese comunque lo tengono, più o meno, tra una cosa e l'altra, fanno le prove, no, loro hanno i macchinari, lo attaccano ai macchinari per vedere se il telefono ha qualche problema. E se mi cagia la linea, io a te ti sentivo, però tu a me non mi sentivi, a un certo punto della telefonata. Come mai non succede con questo? Non è problema di rete, perché io è la stessa scheda e questo non me lo fa. Questo è un mostro, funziona benissimo questo telefono. Sempre Samsung, cos'è la 12 che hai comprato? No, ho comprato l'Oppo come quello di mia moglie, solo che questo è superiore, dai. Il 50S si chiama, mi sembra. Questo c'ha 128 giga di memoria e 4 giga di RAM. E a differenza del mio, il mio ne ha 6 giga di RAM e 128 di memoria più 32. E sono 160 giga. Sì, anch'io ce l'ho messa la scheda, quella che avevo nell'altro telefono vecchio. E ci ho messo l'ho messa qua la scheda. Quanto te l'hanno fatto pagare, Natale? 159 questo me l'hanno fatto pagare. Ma c'è un abisso, questo funziona benissimo. Come il 153 è lo stesso. Anzi, la 53 volevo dire. Adesso non mi ricordo come si chiama. Oppo 53 mi sembra che si chiami questo. Aspetta un attimo che lo guardo. Allora, questo è la 53S. Oscillante 157 euro. dai negozi normali. Non so quanto costa su Amazon. La Media World l'ho preso, questo qui. Vabbè. No, perché è entrato qualcuno, perché io ero. Stavo un po' chiedendo le imposte, perché inizia. Si vedono già le stelle qua. Luca è entrato. C'è ancora? O è scappato? Cioè. No, no, sono qua. Dai, mi ha chiamato la 25 a vedere un film di Carlo Verdone, cioè che bello, visto così, dai. Me ne vado in soggiorno, ma ci senti, lo lascio acceso, ma faccio, se non mi piace mi faccio un salto di nuovo qua, dai. E, te l'ho detto già un frappo, non so se mi hai sentito, se avete risolto con Roberto, penso di sì. E ho recuperato alla fine, era già tardi, un mouse, abbiamo installato qualche cosa, gli ho dovuto togliere Avast gratuito perché è una da fregatura quella cosa. E gli ho fatto un aggiornamento, adesso vediamo se l'ha portato a termine. E poi ho cancellato dei file che sono dei semivirus, quel KM3, vabbè erano così recenti, però me lo faccio lontano da quel tipo di file. E niente, gli ho consigliato di prendersi una schedina di quelle cinesi, quelle piccoline a due ingressi, costano 6 euro, che vanno molto bene, così non sta lì a toccare la scheda principale. Ah, ho capito. Perché Avast io lo installo, ma lo chiedo free. Dimmi un antivirus free che si possa installare, che magari è meglio di quello. Io per esempio nel mio computer, nel Windows 7, che pure adesso quello non me lo fa più mettere, è Essential. Sì, però due antivirus sullo stesso computer non vanno mai d'accordo, perché possono bloccare anche la navigazione, molti siti, creare non pochi problemi. Infatti, figurati, noi abbiamo quelli a pagamento, li abbiamo dovuti togliere, perché sui computer Windows 10, soprattutto quelli anche professional e quelli home, hanno un antivirus suo incorporato, che tra l'altro fa anche benissimo. C'era un altro antivirus, me ne sono accorto. Non so se sono installato automaticamente nell'installazione di Windows. Io di solito metto sempre quello, l'antivirus. Vabbè, un mese dura. Lo so che è una mezza fregatura, che poi te lo devi pagare. Vabbè, dai, io lascio acceso qua. Comunque ho detto, se ha problemi, se serve qualcosa, caffetteria, qualcosa così, ce l'ho. Ne ho tanti caffetti di per il fisso. Niente, ci sentiamo dopo. Ok, no, Windows 10 ce l'ha già incorporato, c'è il suo, che ogni tanto se l'aggiorna e mette in sicurezza un po' tutto, è abbastanza efficiente. E poi è gratuito ed è dura finché dura Windows. E niente, ok, Natalie, io esci fuori. Ehi, ciao Luca, cosa ti volevo dire? Gianfra, forse questo è chiuso di LC l'apparecchio. Voglio provare questo microfono sull'altro a vedere se va meglio, perché adesso è al massimo. Provalo. Tanto siamo qua. Gianfranco. Sì, Natalie. Allora, adesso è a metà. Com'è? Oh, mi sembra più o meno come quello di prima. Aspetta che l'aumento, guarda un po', adesso più forte. Sì, più forte, ma si sentono anche sottofondi. Più forte, ma? Si sentono anche i sottofondi. E vabbè, quello sì, è un MB4 questo. Quindi mi confermi che l'altro è chiuso di LC, no? Però non lo posso toccare quello perché è omologato. E vabbè, a toccare la LC non credo che succeda niente. E l'importante è che non esageri. E cosa ti volevo dire? Sì, adesso si sentono sottofondi molto molto molto forti. Ti ho detto che tu ti devi mettere un laringofono. Già mi compro uno di quelli tipo quello che hai tu. Ma se c'è rumore, qua non ne senti, perché il rumore non ce n'è, a parte come adesso che è passato l'elicottero a 300 metri di distanza appena, anzi non sono esattamente 220. È già la seconda volta che passa, perché c'ho l'aereo via proprio sopra di me. Lo so, però tanto non lo userò neanche più questo apparecchio, figurati, né uno né l'altro, già me lo compro uno come si deve. Ce ne sono tanti in vendita di gente che oramai non li usa più. Quelli comunque è sempre meglio comprare da quelli in garanzia, mai roba da sconosciuti, chiunque siano, se non è proprio gente di fiducia. Ma è così. Il cosa ti volevo dire, non me lo ricordo più. Manco io me lo ricordo, questo è l'altro, il microfono, vedi? Ma il rumore lo so lo stesso. Lo so. Il rumore lo sentirà. Guarda che la televisione è bassa, però amplifica un bel questo. Infatti si sente una specie di pianoforte. Infatti, è basso, però questo si sente più la televisione che io. Ecco cosa dovevo fare, non sono ricordato, era ora. Devo fare una piccola operazione. Cosa stavi dicendo? Che è meglio Windows Defender che un altro antivirus? No, ho detto che Windows 10 c'ha il suo antivirus, che è Windows Defender, che è abbastanza buono perché è sempre aggiornato e in più anche gratuito. Tanto se devono entrare i virus ti entrano con qualunque antivirus, soprattutto quelli gratuiti che dopo un po' vanno in tiro. E comunque su Windows 10 di norma ci va solo il suo, perché se metti gli altri ti danno un sacco di rogne, perché due antivirus nel suo computer non conviene metterli, anche perché te lo appesantisce. Lo so, qui su Avast è un bel pesante, in effetti io ce l'avevo, l'ho tolto. Infatti sono Norton, non ti fidi di Norton. Norton sicuramente il virus non entra per un semplice motivo, che non ti fa connettere a niente, lo devi disinstallare per navigare. Figurati un po'. A fare così l'antivirus sono buono anch'io, ti spengo il computer e così sei più che al sicuro. Ma se no togli il cavo di rete, così almeno sei sicuro. No, che poi lui si lamenta, inizia a dire non c'è aggiornamenti, non c'è questo, non c'è quell'altro. Guarda che sei sconnesso, per carità, ti danno 3 miliardi di messaggi. Infatti. Ma ci sono partite, perché oggi c'è molta calma. Non lo so se ci sono partite. Non mi ricordo più dove l'ingresso. Ok, quindi l'ingresso ce n'è uno. Io nel frattempo sto facendo anche altra roba, perché devo recuperarmi il manuale. Un manuale. Oh signora. Stai dicendo, Natale? Ok, io l'avevo disinstallato quell'Avast, ce l'avevo anch'io. Sì, no, non vale un tubo. Sì, quindi sta funzionando. Si prova sempre il 200. Vabbè. Cosa sta dicendo? 100.000. Sono vorrei praticamente, vediamo cosa rispondono. Nazarino, Nazarino, così è. E cosa stai facendo, Gianfra? Sto controllando un'uscita IF per la ricezione dell'AIS, per vedere se c'è una sufficiente larghezza di banda per permettere ciò. Tutto lì. Quindi adesso devo guardare solo se corrisponde alla sensibilità. Quindi ha 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo un po' come si comporta. C'è il cane che sta guardando, è seduto e sta guardando a vedere cosa sto facendo io. Evidentemente ti vorrà aiutare. Ma cosa sta facendo? Cosa sta facendo quel cane? Ha detto che sei cocuoma, Nefra. Ma è vero, sì. Sì, questo ha detto che sei cocuoma. Scusate, mi ha mai detto che sono qua, mi devi arruare anch'io. Qua, dimmi tu. Ascolta tutto quel cane. Ha un'intelligenza. Comunque quello spezzone me l'ho fatto. Che ragazza. E infatti adesso lo sto usando quello spezzone. Quello MD4 allora sai perché c'è basso? Perché è chiuso DLC questo qui che ho omologato, il non questo no, il Superstar, adesso che mi ricordo. Questo lo sto utilizzando io, l'MV+4. Vabbè, però sarà tutto amici, ma sarà tutto i gocci amici, visto? Non lo so, io sto uscendo col 68. Vabbè, ma questo è chiuso di LC, è tutto chiuso. E ora voi ti dica, KK, che c'è qua? Io e Gianfranco ci siamo, c'era Spagliero ma si è allontanato evidentemente, e Luca pure si è allontanato. Ciao Gianfranco, buonasera. Sì, ciao, buonasera. Io sono un attimino impegnato, che sto cercando di sistemare una cosa. Riprendete voi, sono qua in ascolto. KK, capitata, sì, va bene comunque, dai. Almeno ho la possibilità di allungarlo questo microfono, perché sennò sul tavolo a volte stai scomodo. Quindi in questa maniera qua ho la possibilità di scegliermi il poltrona, capito? Mi guardo la televisione e ogni tanto faccio la chiacchieratina, tutto lì. Infatti, non hai visto quanto è corto il cavo dell'MB4 che ho io, il suo originale? Sì, l'ho visto, troppo corto. Comunque io adesso gli ho fatto questo spezzone qua, questa prolunga, però automaticamente ci metto quell'altro tipo di cavo, 4 poli e lo allungo. E questo ricciato che c'è ispirato l'ho tolgo via, l'ho butto via. Infatti è meglio quello dritto come quello che c'ho io. Io ne volevo togliere anche lo spiralato dall'MB+4 e metterci il cavo direttamente quello della prolunga, tanto è un bel lungo. Sì, ma infatti va meglio, lo sai perché? Allora, questo tipo di filo, questo che ti dà in dotazione sull'MV+4, a furia praticamente tirare, ritirare, si interrompe internamente, capito? Ti dà problemi. Non mi dà un problema, prendo, lo disaldo e gli saldo il coso della prolunga. E intanto adesso non tira nulla perché è attaccata la prolunga. Ma se tu li fai quel sistema lì hai risolto il problema. Già lo so. Vabbè, anche io farò così comunque. Questo qua me lo tiro e me lo faccio unico, capito? Senza aggiunzioni e senza niente. E visto lei contento con questo cavo qua? E così va bene, capito? KK, e così. Adesso provo l'altra radio, così la faccio scaldare un po'. Questa è l'altra radio, Nazarì, com'è? Un po' satura, è come che si è attaccato le mani. Attaccato? No, questo è il liscio, questo è il 48, capito? Il 48 modificato. Sì, ho capito. Così? vedi, così, aspetta, così è normale, 1, 2, 3, 4, poi vai, vado a aumentare, aumentare, aumentare, aumentare, cambio. Già lo so che è così. E così è normale, capito? Così ti puoi dare un filino di ecco, ma di poco, va. Appena appena, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E non mi rilasci meglio senza luce. Ma infatti lo lascio così, va meglio, no? E allora, quello è per camionisti fracassoni. Questo serve per rompere le palle, mi sa. A me l'eco già non mi piace per sé, capito? Quindi piace la sua modulazione normale, tutto lì. Sì, infatti, quegli apparecchi lì li usano quei camionisti fracassoni che ci mettono a fare casino sul 5, sul 45. Ah, vero. Sì, è vero, ci attaccano quei lignaroni, ci attaccano. A me piace più questo, capito? Questo c'ha un'altra modulazione, tutto lì, diversa dall'altra. E ogni tanto bisogna accendere, che so, se non li accendo mi si rovinano. E poco fa stavo parlando col Superstar. Fammelo sentire come esce quel microfono su quell'apparecchio. Il Superstar. Guarda, questo è il Superstar. Ecco, poco uomane. Ciao Claudio, buonasera. Allora, c'è lo balcone, ogni tanto lo posso tagliare. Andiamo, cos'è quello, Napoli Superstar? Ehi, questo qui è il Superstar. Però rende poco il microfono perché è tutto chiuso questo. E l'omologato. Ma lui muore via dicendo, no? Importante, ci sentiamo. Vai, bravo. Ma infatti, quello che stavo dicendo è Natalino. Natalino, questo è diverso, ho capito, è già modificato di per sé questo apparecchio. Quindi anche se io lo metto a minimo il Mickey Gay, cioè è già tirato, capito? È un apparecchio che dà 10 watt questo. E se lo porto su 45 ne dà 20. Questo ne dà 4 watt. Adesso lo metto al massimo, guarda, al massimo è così. E qua c'è 9,20. Ah, 9,25 è qua, sì. Anche tu sei così. Vabbè, avevo tirato sull'antenna, avevo finito tutti i lavori, tutte le cose. È chiaro che, come diciamo, c'è lontano. Ci siamo sempre vicini, Branco Branchi. Non sei lontano, ma sei in un fosso tu. Esce abbastanza bene per uscire da lì. Se lì ci metti un traliccio, spacchi bene qua, arrivi alla bomba, arrivi. 9,25, andò a picchi di 9,30, arrivi. Vabbè, considera che c'è quella, la vallattina, cioè, non so se non lo vedo, però sono a 400 metri d'altezza, però non c'è più, non c'è l'arancio, qua. Gerosiano, Gerosiano, è un bel alto, quindi il problema non sussiste. Ma infatti è quello che stavo dicendo, sono indeciso, me l'hanno chiesto questo 48, se lo vendevo, ma mi sa che me lo vendo, cosa me ne voglio? Adesso c'è pure il 68 qua. Buono, sì. Ma cosa ti dico, io ho chiuso gli occhi e l'ho fatto, tutta la roba che non mi interessava, oddio, roba bella, roba funzionante, però di radio, quando ne hai già due, io ho già 3K e uno Yaesu, no, già lo sai, quello che abbiamo messo la cinghia, il 757 GX2, poi c'ho il Galaxy, basta, ma cosa arriva, ancora radio, faccio 4KF. Infatti, diciamo, non ne fai niente, quando intanto usi sempre, ne usi una, massimo due, non di più. Io sono commutatore a 3, figurati, 757 sempre scodato, manco alimentato, in chimi, a un'ara, capito? Io ho il commutatore a 3, e commuto 3K, poi l'antenna diretta è sul Galaxy, capito? Quindi, cos'è, alla fin fine, no? Non ne vale più la pena volere a casa la piena di radio, no? Che sciocca è tanto una via prima. Già va bene così. Vero, Tattalino? Sì, vero, Adesso me ne comprerò qualcuno io se lo trovo. Io 140 prima di trovare. Ma di questi 140 non se ne trovano più. Ce l'ho trovato, io voglio trovare buono. Io ce l'ho 140, l'ho preso da poco, però era il mio, capite? Mi ha chiamato una persona, ma ha detto che non lo usava più, che era sempre dentro l'armadio, infatti quando me l'ha dato gli ho dovuto cambiare la batteria a tampone, perché non teneva più le memorie. Mi ha messo la batteria a tampone ovo e l'uomo non poi era il mio. Mi sono fidato per quello, capito? Questo è il 140 con la 12, fra, non è il 430 con l'MC60. Questo è il 140 con la 12, la V508. Una bella modulazione. E ti posso dire che ce ne frega anche dell'MC60. Me l'ha fatto abbassare Gianfranco. Me l'ha fatto abbassare. Se lo sollevo da sotto, questo c'è il trimerino da sotto come l'MC85, capito? Della radio è sotto la C e il trimerino è a metà, c'è un buon gammanetta con l'MC60 e poi non distorce niente. Un bel microfono, c'ha due uscite, una I come una Kingwood, io sto usando solo la uscita Kingwood perché quella I come lì come non ho più, quindi con tutti. Ma va bene fra, ma per dirti, se lo trovi da uno fidato prendilo tranquillamente, ma non ordinare su eBay a chi ti rimandano i fasi di HIFU. Io me l'ho comprato uno su internet, quando è arrivato l'ho messo sotto, grazie a Dio, già lo conosco. Picchi negativi, watt, mi pare in via 30, modulazione da schifo, l'ho mandato a Vittorio, il continente me l'ha rimandato che era una bomba, l'avevo venduto a Massimiliano, che Massimiliano l'ha venduto a Eugenio, quello che c'è Eugenio. Perfetto, nuovo, tutto revisionato, però devi spendere sempre soldi, capito? Lo compri e poi devi spendere soldi per farlo, per metterlo a posto. Lo so. E allora il mio quanto vale? Se ho 80 adesso. Guarda fra, 250 euro la sbagliato io, quindi se ho 80 ne vale 350, non di più, 100 euro in più, ma perché c'è la scheda di simmetri, se no le radio sono uguali. Ma infatti, vabbù. Ma io non lo do, claro, capito. Lo tengo, già lo sai, è una cosa che ho sempre tenuto. Beh sì, anch'io, no? Cose che ho comprato, che mi hanno regalato, le ho sempre tenute, sì, non c'è problema. Però se 80 vale un pochino di più, 100 di più, perché c'è la scheda di sinistra, non te lo 50, se non te lo prendo. Però internamente sono uguali, per spiccicati. Va bene, io ho pagato 250 euro, era il mio, l'avevo venduto 250 euro, ho pagato. E ti dico che va molto bene, è nuovo, non ho problemi di niente, ma ti ripeto, sono tranquillo perché gli avevo dato io, ma se vai a comprare, non so, vai, tattarino. Sì, infatti, io se lo trovo qualcuno buono me lo compro e poi mi venderò quello là, sai che non me ne faccio nulla, perché il 140 fa tutto quello che fa questo qui e anche di più. A me mi serve per altre cose il 140, magari non lo uso neanche in trasmissione. Se non usi in trasmissione, allora è una fagoggia, capito? Puoi trovarne che qualcuno magari ha fatto barato, che c'ha qualche difetto, qualcosa, non so. Vedi tu, Natalino, se ti voglio bene, ti dico sempre occhio. È sempre un vice trasmettitore, no, ti vuoi... di vigna, gli ausai che lì sono mezzo pazzi e se quello te lo trovano questa volta capisci un casino. È meglio di lui, il ricevitore, Natalia e continui a andare avanti così tranquillo e sereno come stai andando. Io l'ho preso così, ausai devo dire che faccia rigorosi. E no, che adesso se vogliono entrare qua ci vuole il mandato. Faccio rigorosi. Io sono Natalia. Noi li siamo, non ti devo insegnare niente, se non vado ne avvenne niente, capito? Ti può andare sotto sopra, mi pagano due ragazze. Ah, lascia perdere, non vale la pena, per un bel ricevitore, c'è la ricetta di SWL, c'è la radio omologata, due chiacchierette lo fai. Cosa pensi, me la giubilata, io ho fatto, ma fa un radio amatore, ma fatto un cazzo a me fa un radio amatore. Io me lo avere le radio, perché avevo sempre le sue radio sotto casa, quando era fermo là, c'erano sempre botteggiati, un frugato di telescopi, così per me prendendo a me. Infatti l'ultima volta che erano venuti si sono trovati male. Piano piano c'è un altro campanello, c'è la sobbata. Signor Piras, allora, signor Piras, si chiama da forza. Radio, salga, non è salito, ha aperto la sala radio, c'era la cameretta, la sala radio, tipo questa, un po' più piccola, allora non ci siamo capiti, no, forse non ha capito lei, ma già vedo l'uberaccio, ve la giù la faccia, aspita, auguri, cos'è, male ti sia avuto. Ah, non erano informati? Assolutamente no, assolutamente no, perché sono venuti proprio, proprio una come si dice, una per un rilievo impressa, praticamente io avevo dato gli esami, insieme al Salvatore avevo dato gli esami il giovedì, la risposta c'era andata immediata, perché noi eravamo arrivati alla Basanta. Infatti siamo vermichini, a giugno di Bergamo, tiranti, ero io, la mamma, il sorellai, qualche un altro c'era, il poverino, che è morto, e ci hanno fatto le sorte immediate, avevamo passati tutti, giovedì. Il venerdì alle 11, me lo ricordo come oggi, era in questo guascio, controllarmi la vostra rimballa. A sorpresa, giunto. E una sorpresa se n'è andato. E ti dico che dal giugno del 1992, perché l'ho preso a giugno del 1992 la patente, non v'è più giù di nessuno a fracassarmi le balle, mai più. Sì, infatti. E poi adesso quando cambiano le frequenze TV bisogna vedere se disturbo oppure io. Io comunque non è venuto più nessuno a rompermi le balle. A metà mi sembra siano già cambiate, sono già tutte in HD, adesso bisogna fare il resto, non so anche. Vedi te, fai camomilla, vai Franca, ti faccio una bocca, va, faccia a Filippo che la vado a mangiare. Gaba, uia, che casino, in Germania. Questa cosa è andata. La gente mi ne farà da roba. Uia, infatti non è vale la candela. Io qua ho giurato, non spendo più neanche 50 lire per queste cose. Quella radio che c'ho, la seguo. Fino a quanto le posso tenere, da voi già l'hanno fatto tutto di lui. Hai capito Natalino che pagava di così tipo? Oh yeah. Stazionaria non ne ho. Oh, questa antenna comunque già va bene, dai. Mo che andava fra, poi che la posizione chi sei conta. Io che sono in basso, in un fuzzo. Va bene, intanto che l'antenna sai, devi passare tu raggabitudio, tu raffarà, tu razza. Infatti. Poi da me è difficile a cambiare l'antenna, se no l'avrei già cambiata. Sì, ma infatti. Ma già va bene anche quella, cosa di una fuzzi. La gasta tutto così. Al limite la potresti sollevare se ci riesci, ma sarà difficile, no? Ah, se c'è appunto un tubo che si incastra anche più di sotto, via si può alzare. E quell'antenna vorrebbe appena sollevata. Io già lo so. Avreste avuto meglio ricezione, una buona ricezione, una buona trasmissione. Ma già va bene anche così. Io questa qua non è alta, Claudio l'ha vista. Quanti metri sarà qua? Pare che 4 metri di tubo. No, sono 6 metri di tubo, più l'antenna. Da me esci 2 metri dal tetto, figurati. Di più di 2 metri non esci da me. Poi chi su Baru è troppo vino in punta ed è un macello dove è attaccata l'antenna. Bisognerebbe sostituire anche quello. È un palo innocente, ma già pesa poco già. E in campagna è all'aggio 12 metri di Baru. Se riesce a tirare nido chi su Robonghinoghi è giù risolto. Ma te l'ho detto una mattina. E vuoi salire che fa bello, si butta giù l'antenna e si toglie il palo, al limite si smartezzato con l'antenna, bisogna smontarla piano piano, se no ti si spezza. Sì, mi piace chi da senza radiale, chi da, come si chiama, la Game Master. Che ce l'ho io la Game Master? L'originale metto. Ah, perché io c'ho una Game Master? Truita, esce forte. Ehi, quelle lì escono tutte e tutte. Quello che io non è piatto perché non io voglio essere sul tetto di nuovo. A cava minuta, rimane chi te bu. Ehi, che già va bene, è la posizione buona che c'hai tu. Tu puoi buon impresso di virù per ricci sempre voi. Ora tu pensa che nell'avanto va 5, io stavo uscendo senza antenna, solo col PL appoggiato. Chiudami. Pezzo di vino. Solo col cavo. Solo col cavo. E arrivava a portatore Santiago 9. Chiudami. E buvo la campagna gata i civocchi in Ugnarugu. Capitavo con l'isola rosa, con Badesi, con Ugnarugu. Ebbè, per forza. È la posizione buona questa, capito? E infatti, è la posizione, e poi l'antenna era buona, quella là, era 90x5. Si va via due mesi, chi s'antenna da quando mi sono andato, chi se ne è ridendo. La mia quando non è parata, si è fatta tutta a pezzi, tutta. E me lo posso immaginare. Di da Mantova Turbo, gatta, tre voci ne ha giovuta di montà. Tutta sossidava, si fa zia, mamma mia, con l'aria di Romari, mi innalzava anche io. A beffa mi l'ha fatta questa Mantova Turbo, infatti non andava in chibi. Vivo una Mantova 5 e andava bene quella lì, la Mantova 5 non si arrugginia, no? In chissà che poi ne avevo una come questa qui, in chi me ne farà direttamente Rugavu, me ne farà da chi si è frasigato la brisa di l'antenna. Allora a me praticamente, che quando sono saliti a fare l'antenna TV, qualche bastardo, che sicuramente è un bastardo quello che è salito, che non so chi è salito, no, mi ha tirato il filo del PL e ne ha tracciato il filo, come ha tirato, ha spaccato il barilotto della Mantova 5 e ne è caduta in terra, capito? Se no quell'antenna sarebbe stata ancora su. Figurati. Ah, quindi dopo di me è salito qualche altro. È salito questo per fare l'antenna TV e ne ha tracciato il filo dall'antenna e io non me ne ero mai accorto. Questo bastardo ha preso e ha tirato. Come ha tirato? Siccome che il filo era nastrato, come ha tirato il colpo da sotto? Ha stracciato il PL dall'antenna, capito? Me l'ha stracciato proprio dalla Mantova 5 il barilotto, l'ha spaccato da lì. A me invece mi si è frasigato, ha detto, cazzo, ma no, intendo QRM, non intendo nulla. E c'è pure la ciapprugata in terra. Si era frasigato proprio la brisa di l'antenna. Dimmi tu. Magari con l'andare del tempo, capito? Era magari con l'acqua, o è entrata acqua sicuramente. Ah, la tassidine che ti crepa tutto lì. In campagna dove sono io, la salsedine fa danno. Che stai scendendo da 4 watt che sta dando. Di più non è da. Ora. Quale stai usando adesso? Sto usando. Ti ricordi quel 68 che mi hai dato tu? Tutto ancora vedrai, ma quello che usavi in macchina. Non è questo che sto usando, ma c'è una radio questo qua. Ma quello è il vecchio modello, sono i migliori che c'erano. Allora questo qua non prende neanche QRM, invece il 48 ne prende poco mondezza. E coi più un bel. Allora invece questo 68, se lui parla, io vado sul G, sull'11 96, invece se vado sul 48, da tutte le parti prende qui. Ma c'è un po' che migliore il 48, era così, infatti molti camionisti volevano il 68, però l'avevo preso a Gigi Volcano, figurati. Ma questo è modificato lo stesso. Allora questo 68 va dai 5 ai 10 watt. Sì, è tirato al massimo, poi c'è anche la commutazione dei canali, perché quella era 34 canali a 40 canali, c'è la modifica dei 40 canali. C'ha la modifica dei 40 canali e più c'ha anche i canali, il 45. Sì, Gigi me l'aveva fatto, l'ho preso da lui, ma cazzo, roba di anni sono passati, le sciughe. Qua adesso sta uscendo con... adesso sto uscendo con 4 watt, 5 watt modulati. Adesso l'ho portato a 10 watt, guarda, 1, 2, 3. Già sale, da 5 a 10. C'è bene, ce l'avevo in macchina, da stintino, l'hai visto quanto c'è bene. Esce bene sì, dove devo fare? No, io baracchino, no. C'ho l'erba che sento l'armadio. Forse qualche altro baracchino, poi c'ho il garage e basta, il resto della tutti, e ne avevo 12 basse, basta, ne va, andiamo a te a casa dei baracchini, e lui. Io ho fatto uno Galax a un amico di Tempio, praticamente gli ho messo il 747 all'interno, capito? Non è bello, non voglio fare io, col 747, ma volevo spolpare, farlo il posto e metterlo dentro, lo regolo la potenza giusta da dentro direttamente, alimentazione a 12, preso dal trasformatore, dove ci sono le alimentazioni per le luci, lì per il frequenzimetro. Esce un bellissimo lavoro, ce lo mangio grande, ma la cena fuori, tanto non è grato, là. Non lo vendo perché mi piace troppo il Galaxy, un baracchino bello lo voglio avere, questo è bello, completo, nuovo, microfono originale, c'ho lo schermo elettrico, c'ho tutto. Manca solo la scatola perché non la trovo, non l'ha trovata quando me l'ha venduta, se non dovrebbe avere anche la scatola, ma l'ha detto bene, via, tanto non mi ha fatto un bel cazzo io, però nuovo, funziona un bel bene. Ma quella è una bella radio, Clara. Quella non l'avrei venduta. Neanche, guarda, io ho questo 68 che mi avevi dato. Questo qua io ce l'ho anni, mai problemi mi ha dato. No, non l'ho venduta. Non lo tengo questa, non lo tengo. Già va bene così, questo può fare per avere un baracchino serio, va. Tanto. Entro poco, quando entro sempre con questi, no, me la fatti nulla. Tatarino, Perivella. Dimmi. E quel cocco mai Luca dove è andato? C'è in giro, perché... È andato a bendarsi un figlio. Quanto si può vendere là, quel 48 modificato? Un po' di soldi valgono fra, guarda più o meno quanto li stanno vendendo su internet e poi magari fai un prezzo, capito? Poi li stanno vendendo un po' di soldi, non te lo danno meno di 350-400, c'è gente che lo dà anche a 500 euro, con il doppio modulatore, tutto il kit, capito?